Capitolo 7. Guarda lassù. A. Anna Maria e Bruno. 1. Ascolta il dialogo. Guarda! Che cosa? Lassù! È una mongolfiera! Ma... ehi! Fai attenzione! Fai attenzione a cosa? Alle altre macchine! Guida con prudenza! Lo sai che ho paura quando ti distrai! Allora perché mi chiedi di guardare in alto per vedere le mongolfiere? Vuoi sempre avere l'ultima parola. Ma che dici? Lascia stare. Gira qui a destra, così ritiro la giacca in lavanderia. Per piacere, parcheggia qui. Faccio subito. Abbi pazienza, siamo già in ritardo. Fai presto, per favore.